Plus. La storia e la memoria di Dino Pesole. È una delle più grandi battaglie della storia. Il 18 giugno del 1815 a Waterloo si affrontarono nella battaglia decisiva da una parte le armate francesi guidate da Napoleone Bonaparte e dall'altra l'armata inglese comandata dal duca di Wellington, il trionfatore della campagna di Spagna, e l'armata prussiana guidata da von Blücher. Sono trascorsi esattamente 200 anni dalla battaglia decisiva che segnò la fine di Napoleone e cambiò il corso della storia e degli equilibri geopolitici in Europa. Di questo evento parliamo questa sera con il professor Luigi Mascilli Migliorini, che è docente di storia moderna all'Istituto Orientale di Napoli, autore di diversi saggi su Napoleone Bonaparte. Buonasera, professore. Buonasera. Il più grave errore che storici ed esperti di storia militare hanno attribuito a Napoleone fu quello di aver atteso alle 9 di mattina fino a mezzogiorno per dare l'ordine di attaccare, in modo da lasciare il tempo al terreno acquitrinoso di asciugarsi dopo il temporale della notte precedente. Il ritardo diede il tempo alle Blücher di marciare a Waterloo e unirsi agli inglesi. Anche se le truppe di Napoleone condussero un poderoso attacco contro gli inglesi, l'arrivo dei prussiani cambiò le sorti della battaglia a sfavore dei francesi. Fu una disfatta. I francesi subirono più di 33.000 vittime, tra cui morti, feriti e prigionieri, mentre le vittime inglesi e prussiane furono in totale oltre 22.000. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, Napoleone si allontanò dalla battaglia in lacrime. Il suo rivale Wellington divenne in seguito primo ministro britannico, mentre il generale prussiano Blücher, già settantenne al tempo della battaglia di Waterloo, morì qualche anno dopo. Il 22 giugno 1815, ancora una volta Napoleone abdicò. Nell'ottobre di quell'anno fu esiliato a Santa Elena, nel sud dell'Atlantico. Morì il 5 maggio 1821, all'età di 51 anni. Il primo a dare la notizia dell'esito della battaglia di Waterloo fu il Times di Londra. Allora, ci aiuti a 200 anni di distanza da questo evento epocale a raccontare ai nostri ascoltatori qual è stata la sua importanza storica? Beh, direi che il ricordo a 200 anni è ancora così vivo da giustificare da solo l'importanza di quella battaglia. Fu l'ultimo tentativo di Napoleone, dopo che già era fallito quello precedente, l'impero era già caduto un anno prima sotto i colpi di un'alleanza europea vastissima. Fu l'ultimo tentativo di Napoleone di rovesciare a proprio vantaggio un rapporto di forze che, soprattutto dopo la campagna di Russia, ormai era evidentemente a suo sfavore. E quindi rimane, per così dire, un gesto eroico. È una battaglia che non ha la possibilità di un domani, e da questo punto di vista rimane appunto celebre non solo per i risultati, ma direi per l'intensità stessa con cui venne combattuta sia dall'una che dall'altra parte. In qualche modo entrambi gli avversari sapevano che non ci sarebbe stato un domani possibile per chi avesse perso quel giorno a Waterloo. È vero, come hanno raccontato alcuni testimoni e molti storici, che uno degli errori più clamorosi di Napoleone fu quello di ritardare l'attacco, di fatto dalle 9 di mattina fino a oltre mezzogiorno. Questo fu determinante oppure no, dal punto di vista, diciamo, della strategia militare? Ma sa, su Waterloo, come su tante altre battaglie napoleoniche, ma su questa più delle altre ovviamente, si è esercitata la curiosità dei profani, ma anche l'attenzione poi di tutti gli esperti di cose militari. Non c'è accademia militare che non abbia scritto e riscritto mille volte la battaglia di Waterloo per insegnare che cosa sia veramente accaduto quel giorno e come si possa evitare. Quindi gli errori determinanti su Waterloo ne sono stati sempre raccontati molti. Uno è certamente quello del ritardo con il quale Napoleone, che era l'attaccante, cioè era quello che avrebbe dovuto prendere l'iniziativa del combattimento, di aprire, diciamo, il fuoco, il colpevole ritardo, 3 ore almeno, dalle 9 a mezzogiorno, si dice, almeno così poi Napoleone stesso giustifica questa sua scelta per la grande pioggia caduta sia la sera precedente ma durante tutta la giornata, che aveva reso la pianura, lì il campo di battaglia, molto molto difficile per chi avesse attaccato, perché cioè avesse dovuto muoversi in avanti con le fanterie, come era il progetto di Napoleone, rispetto agli anglo-olandesi che avevano il compito principale di stare un po' in alto, diciamo, sull'altura dove si erano più o meno assestati ed aspettare l'attacco nemico. Ma ripeto, di errori come questi è pieno, per così dire, il breviario dei comportamenti e durante la battaglia, ma anche prima, perché tra i vari ritardi di Napoleone si imputano anche quelli che riguardano i giorni precedenti, laddove la vittoria che lui ottiene sui prussiani il 16 non viene, per così dire, sfruttata fino in fondo, così come avrebbe potuto esserlo, con una sorta di inerzia in quella giornata di intervallo tra il 16 e il 18, che è ovviamente il 17, e a cui molti attribuiscono forse ancora di più del ritardo delle tre ore della mattina del 18 la responsabilità di quello che poi accade a Waterloo. C'è un aspetto che lei giustamente sottolineava, che rimanda alle questioni più prettamente storico-militari, per così dire, perché nell'aver tramandato la tradizione della battaglia di Waterloo si è diffusa un po' la percezione che si fosse trattato di uno scontro aperto tra sostanzialmente l'armata napoleonica e quella inglese. Invece fu determinante l'apporto dei prussiani. Anche questo forse è un aspetto da non sottovalutare, professore. Beh, gli storici oggi lo ricordano con maggiore forza che il passato. Qualcuno arriva anche a dire, per esempio il mio amico Thierry Lenz, che ha scritto un bel libro su Waterloo uscito in questi mesi, lui sottolinea molto, e sono d'accordo con lui, che in fondo i veri vincitori di Waterloo furono i prussiani, nel senso che in qualche modo fu il loro intervento nella seconda parte della giornata a rovesciare le sorti del combattimento, come lo era stato forse anche, lo ricordavo prima, la resistenza e la capacità in qualche modo di sfuggire alla sconfitta che avevano avuto nella giornata del 16 di giugno. Devo dire però che questo è verissimo e, ripeto, ne sono anche d'accordo. Tuttavia la straordinaria resistenza dei quadrati di Wellington, cioè dell'esercito inglese contro la cavalleria francese, ritarda, a proposito di ritardi, almeno di 2 o 3 ore la possibilità dello sfondamento che Napoleone aveva sognato sin dall'inizio della giornata, e questo aiuta moltissimo poi i prussiani ad avere il peso decisivo che oggi tutti riconoscono a loro. Che cosa rappresenta, professore, dal punto di vista politico e degli equilibri geopolitici da allora, la sconfitta definitiva di Napoleone? La sconfitta definitiva di Napoleone significa prepararsi a quello che noi conosciamo come l'Europa della Restaurazione, che non è solamente quella che poi si era già disegnata nel congresso di Vienna, ma che deve aspettare appunto Waterloo per poter mettersi in pratica. Se Waterloo fosse stata vinta da Napoleone, qui si apre poi tutta una straordinaria possibilità di disegni diversi, ma insomma, per rimanere a che cosa veramente è accaduto, l'Europa della Restaurazione si fonda sulla vittoria di Waterloo non meno che sui risultati del congresso di Vienna. Europa della Restaurazione significa in generale, come impariamo anche dai libri di storia, un'Europa segnata dal desiderio, non dico nemmeno di fare a meno della rivoluzione francese, perché questo un po' è scontato e un po' era anche impossibile, ma certamente di neutralizzarne al massimo gli effetti politici, ma anche quelli morali, quelli sociali ovviamente. Ma significa anche, forse questo su un piano geopolitico talvolta si trascura, una riduzione per almeno 30 anni del ruolo della Francia nello scacchiere europeo. La Francia era stato il grande paese di Luigi XIV, la nazione più importante del Settecento, anche prima della Rivoluzione francese. E Napoleone in qualche modo ne è la continuità, diciamo, di questa grandeur francese. Si interrompe a Waterloo e non a caso sarà un nuovo Napoleone, cioè il Napoleone III, il nipote, che quando arriverà al potere dopo il 1848, come prima mossa, dichiarerà di volere, per così dire, stracciare i trattati di Vienna, dimenticare Waterloo e fare una nuova Europa nella quale la Francia abbia il posto che le compete. Cosa resta, come dire, dell'eredità, dell'insegnamento, se vogliamo, storico di questa battaglia decisiva? Ma guardi, io ricorderei che il 18 di giugno non è solamente, come oggi lo diciamo, il bicentenario della battaglia di Waterloo, sono anche 75 anni da quando da Radio Londra il generale De Gaulle lanciò il suo famoso appello della Francia libera. Eravamo in quel momento, siamo nel 1940, a pochi giorni dall'occupazione nazista di Parigi. In qualche modo non è casuale, De Gaulle all'epoca scelse quel 18 giugno con intenzione, per ricordare cioè che ci possono anche essere delle sconfitte gloriose, e certamente Waterloo lo fu, come in fondo lo era stata anche la disfatta della Francia del 1940. E a 200 anni noi dobbiamo ricordare che gli ideali, i motivi per i quali Napoleone voleva in qualche modo imporre all'Europa un nuovo passo, una nuova cadenza, rimangono ancora molto forti. Certamente nessuno di noi ne accetterebbe, come dire, accetterebbe ideali portati sulle baionette di Napoleone, però quelli rimangono ancora i punti di riferimento della civiltà europea. Sono il mondo dei grandi diritti universali proclamati dalla rivoluzione, dei grandi sistemi di codici civili creati da Napoleone, insomma una civiltà che si deve misurare certamente con i problemi del XXI secolo, ma che non può dimenticare quali ne siano state le forti radici originarie. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo di questo suo contributo che ci ha aiutato a capire meglio la portata di questo evento di cui proprio in questi giorni si rievocano i 200 anni. Buona serata e grazie ancora, professore. Grazie a lei, arrivederci.